Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è il racconto Toro seduto di e con Daniele Monterosi. I film dicevano che gli indiani erano quelli rossi con le penne in testa, che andavano a cavallo senza sella, che lanciavano le accette e facevano. Ecco, i bianchi invece no, i bianchi no, erano i salvatori e facevano suonavano la carica e con i fucili vincevano sugli indiani pelle rossa cattivi. Ecco, insomma, per me gli indiani erano un insieme di questi suoni. Con questa idea sono andato avanti per un bel pezzo, con l'idea di questi indiani che correvano per le terre sterminate, no? Inseguiti dai soldatini. Fondamentalmente mi sono trovato a 40 anni a non sapere un granché di questi indiani. Così, grazie a questo appuntamento e grazie a tutti voi, io mi sono andato a fare una piccola ricerca. Perché effettivamente, ma di questi indiani e di quello che poi sarà il capo di tutti gli indiani, ho scoperto che non ne sapevo un granché. Per esempio, la prima cosa che non sapevo è che in questo grande nord, in queste grandi parterie, loro erano ovviamente divisi in tribù. Queste tribù, nomi mitologici di tribù, come nomi che abbiamo conosciuto e saputo, Apache, Comanche, Cherokee, Piedi Neri, ma dove stavano combinati, come erano messi? Ecco, erano divisi in tribù, pensate, che si facevano la guerra, ma era una guerra sana questa, una guerra che riguardava il territorio, erano popolazioni nomadi che si muovevano e si spostavano in un territorio abbastanza circoscritto e loro avevano trovato nel corso dei secoli il loro equilibrio. Faccio un esempio, per esempio i Comanches, sapete dove stavano? Stavano qua, nel sud dell'America, vedi? Ma prima ancora che si chiamasse America, loro già c'erano, per esempio, non so, il nome dei Navajo. Guarda dove stavano i Navajo. Ma tu va a capire che i Navajo stavano lì. Oppure, non so, altro nome mitologico, i Cheyenne, per esempio, eccolo. Quello che adesso è il Wyoming, c'erano i Cheyenne. Oppure, non so, per esempio, i Piedi Neri. Ecco, i Piedi Neri stavano belli a nord, vicino al Canada, nel Montana. Oppure c'erano quelli che stavano nel Nuovo Messico, che erano gli Apache. Oppure c'erano quelli che riguardano in qualche modo la nostra storia, e cioè i Sioux. Tra le cose che io sono andato a studiare e ricercare, ho scoperto ovviamente che queste tribù ovviamente si facevano la guerra, la battaglia. Infatti erano popolazioni di cacciatori e guerrieri. Fondamentalmente gli uomini andavano a caccia e facevano la guerra, quindi le accette le usavano per davvero. I cavalli invece no, arrivarono solo dopo, perché li portò in America qualcuno che venne dall'Europa, appunto nel 1500 arrivarono i cavalli e da lì in poi li cominciarono a utilizzare. L'altra cosa importante è che anche se diversi e divisi in tante tribù, queste tribù non superavano mai 15.000-20.000 elementi, erano tribù quindi molto contenute, si muovevano, non erano stanziali, erano nomadi, quindi si muovevano all'interno di questo territorio. Gli uomini, come detto, andavano a caccia e facevano la guerra, le donne pensavano alla prole, alla famiglia, alla tenda, alla casa, ed erano tribù matriarcali, cioè giravano intorno al potere e al pensiero delle donne. Altra cosa che li accomunava tutti era la loro religione. Cioè avevano una religione particolare questi indiani, un po' comune per tutti quanti, quella che appunto andava a elencare gli spiriti. Il più importante di tutti, di questi spiriti, non poteva che essere lui, che si chiamava Wankantanka, il grande spirito. Era lo spirito che proprio permeava tutta l'esistenza ed era lo spirito che poi piano piano e lentamente entrava anche nelle vite e dava vita agli altri elementi, tra questi le piante, gli animali, che per esempio per gli indiani, per tutti gli indiani, erano fonte di grande rispetto. Gli animali erano e rendevano visibile l'invisibile, secondo gli indiani. Questa era una cosa che li ricaratterizzava, perché dicevano una cosa di questo tipo: tutte le cose sono connesse, come il sangue che unisce una famiglia. Ciò che accade alla terra accade ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, essi sputano a se stessi. L'aria è preziosa per noi perché tutte le cose che condividono lo stesso respiro, gli animali, gli alberi, gli uomini, così noi sappiamo. Quindi avevano un grande rispetto per gli animali, per la terra, cose strane. Un'altra caratteristica, che da quando ero bambino io vedevo intorno a questi personaggini qui, erano queste piume in testa. Gli indiani sono quelli con le penne in testa, si diceva. Ma quelle piume non abbiamo mai capito cosa significavano. Io ora da adulto, quasi a 40 anni, so! Per esempio, quelle piume non erano piume normali, piume qualunque. E non ce l'avevano in testa tutti. Come abbiamo detto, gli indiani avevano un grande rispetto per gli animali. Prima di ucciderlo ci pensavano, come? E tra questi animali, quello che rispettavano in maniera particolare era l'animale che volava più in alto, perché volando più in alto rappresentava la cosa che più in alto c'era, il sole, che era una delle divinità più importanti per gli indiani. L'animale che volava più in alto era l'aquila. E tra le aquile, che erano gli animali che volavano più in alti, gli indiani andarono a scegliere l'aquila che volava ancora più in alto, la grande aquila reale. Le piume che infatti vediamo in testa agli indiani non sono piume normali, sono piume bianche e nere, piume di aquile reali. E non le metteva in testa chiunque, le portava in testa solo chi si era contraddistinto in battaglia per grandi meriti. Ed è così che io ricordo la prima immagine dell'uomo in questione. Quest'uomo indiano, pelle rossa, che era un dispregiativo, ma era anche il colore reale della loro pelle, con queste due piume in testa, che è un'immagine che si staglia nella memoria di tutti quanti noi bambini, un po' cresciuti, anche a 40 anni. Quella di Toro Seduto. Allora, innanzitutto, di quale di queste grandi famiglie faceva parte? Ne abbiamo citate parecchie, abbiamo citato gli Apache, i Comanche, abbiamo citato appunto i Piedi Neri, eccetera, eccetera. E questo ovviamente è il più grande capo indiano che noi conosciamo, fa parte di una delle più famose tribù, cioè quella dei Sioux. Ora, attorno a questi elementi ci sono un po' di cose da sapere, un po' di date importanti che ci ritorneranno utili. Innanzitutto andiamo un attimo a scoprire insieme, perché io sono andato un po' a ricercare, a studiare, perché io queste cose ovviamente da bambino mica te le spiegavano. Allora sono andato a cercare Tatanka Yotanka, oppure Tatanka Yotake, che era proprio il nome di Toro Seduto, nato intorno al 1831. Che tra l'altro, appunto, Tatanka Yotanka, Tatanka nella terminologia indiana, Tatanka è bisonte, l'animale più importante in assoluto. Ci sono infinite leggende che ruotano attorno ai bisonti. Tra l'altro il bisonte bianco, divenuto donna, è quell'animale incredibile, mitologico, che portò il famoso calumet della pace, la pipa sacra di grandi cerimonie che noi tutti conosciamo sempre grazie ai film. L'abbiamo vista, sta pipa. Ecco, era legata anch'essa ai grandi di bisonti. Ma procediamo per gradi, perché Toro Seduto è il nome da condottiero, e Toro Seduto a 14 anni acquisisce questo nome, pensate, che in realtà appunto come significato Tatanka è bisonte seduto, e lo acquista questo nome perché l'altra caratteristica degli indiani è che non avevano un nome fisso, cambiavano il nome a seconda delle grandi gesta che facevano, più o meno grandi. Bisonte seduto, Toro Seduto per noi ormai famoso, prende questo nome proprio perché affronta, per il modo con cui affronta i nemici, già da giovane. E già da giovane, con questa grande azione, lui acquisisce il nome di Toro Seduto e la sua prima penna. Poi ovviamente nel corso della sua carriera ne metterà altre. Ma arriviamo a un'altra data importante, perché tra tutte queste storie, ovviamente, che cosa rappresenta questo nostro viaggio? Una lotta interna. Fondamentalmente succede che gli indiani d'America erano lì da secoli, arriva l'uomo bianco e pretende che invece quelle terre diventino le loro. Guerre ovunque, dappertutto. Inutile fare l'elenco infinito delle battaglie condotte dagli uomini bianchi contro gli uomini pelle rossa, dispregiativamente chiamati così. Tra queste, sicuramente la più famosa è quella che è stata combattuta nel 25 giugno del 1876, passata alla storia come la battaglia appunto di Little Big Horn, la battaglia di Little Big Horn. Questa è una battaglia storica, importantissima e fondamentale, e rappresenta un po' la metafora del perché ho scelto questi due personaggi. Ora, da una parte si schierava l'esercito americano comandato da niente poco di meno che lui, eccolo qua, George Armstrong, lunghi capelli Custer, veniva chiamato così questo omino qua, tra l'altro passato alla storia come generale Custer, il famoso generale della settima cavalleggeri, cavalleria, ma in realtà generale non era, ma procediamo per gradi. Accade questo intorno a quegli anni, c'è un trattato molto importante che viene fatto a un certo punto tra i bianchi e i rossi. Nel 1868, in un fortino di questi americani, Fort Laramie, viene stipulato un trattato che mette in salvo i bianchi e i rossi. Cioè, fondamentalmente si dice così: i bianchi dicono, noi non vi uccidiamo più, voi però state buonini. Ed è così che nascono le prime riserve. Le riserve nelle quali vengono messi gli indiani, e tuttora, ancora oggi, molte di queste tribù vivono in cattività in queste piccole riserve che diventeranno negli anni sempre più piccole. Ma procediamo per gradi. Perché la riserva nella quale vengono destinati i Sioux è una riserva molto particolare. Vengono infatti spostati in quello che è il Dakota del Sud, nella parte occidentale, una parte piccolissima di quello che era la zona nella quale loro prevalentemente si muovevano. Vengono rinchiusi lì e soprattutto vengono in qualche modo chiusi con questo trattato e garantito il fatto che nessuno entrerà da parte dei bianchi e nessuno dei rossi, delle pelle rossa, dovrà uscire. Ora, tenete a mente questo nome: all'interno della riserva dei Sioux c'erano le montagne Rene, le famose Black Hills. Le cose vanno avanti abbastanza bene dal 1868, gli indiani stanno chiusi là dentro, gli bianchi si muovono fuori, però succede una cosa strana, ed è qui che subentra il clou della storia, perché nel 1874 si scopre che sulle Black Hills, incredibile ma vero, c'è l'oro. E allora i bianchi cominciano a dire, no, ma noi vorremmo andare dentro le Black Hills per prendere l'oro, ed è da lì che comincia la famosissima corsa all'oro degli americani. Ora, dobbiamo capire questo, immaginare questo. Per gli americani, le Black Hills rappresentavano l'oro. L'unico motivo per il quale andare ad assaltare le montagne, le Black Hills, era l'oro. Per gli indiani, le Black Hills, per i Sioux soprattutto, le Black Hills rappresentavano una sorta di grande tempio sacro. Era lì, infatti, che i Sioux andavano a raccogliere le più grandi preghiere, le più grandi raccolte, anche per quanto riguarda medicinali, eccetera. Quindi da una parte avevamo una popolazione che si muoveva solo per il mero consumismo, l'oro, la corsa all'oro. Dall'altra parte, esseri che vivevano in quelle terre, che appartenevano a quelle terre e che venivano in qualche modo usurpati di qualcosa per loro sacro, come se qualcuno entrasse in chiesa per un cristiano e prendesse tutto quello che c'era. Ovviamente non ci stanno. E cosa accade? Per la prima volta nelle battaglie tra bianchi e rossi, i rossi si mettono insieme, e a metterli insieme, appunto, tutti questi popoli, queste diverse tribù, è appunto quest'uomo qui, Toro Seduto. Li mette insieme e riesce in qualche modo a far sì che possa mettersi a difendere le colline nere, le Black Hills. Ora, qui c'è una piccola parte che bisogna raccontare rispetto a quello che è stato ed è il mondo meraviglioso del generale Custer, che il generale non era. Allora, bisogna capire questo personaggino qui era un personaggio incredibile, ambizioso ma con poco talento. Sin dall'inizio, mentre comincia a studiare, si mette lì e si scopre che ovviamente non ha un grande talento, ma ha delle grandi amicizie. Appena finito gli studi, infatti, è l'ultimo in graduatoria, ma è il primo a cominciare a prendere qualche lavoretto, qualche missione. In America c'è la guerra di secessione e lui si mette subito in mostra per un grande talento. Fondamentalmente in grandi battaglie mandava tanti uomini a morire, poi lui vinceva, sì, ma erano morti in tanti e lui diventava un eroe. Diventa piano piano un eroe nazionale, anche se ovviamente per i soldati è odiato, perché la sua vittoria era sempre sulle spalle dei propri soldati. Succede questo, che col passare degli anni lui comincia a aumentare ancora l'ambizione, vuole diventare presidente degli Stati Uniti d'America, e per farlo ha bisogno di un grande gesto. In quel momento scatta la corsa all'oro. Quale miglior gesto, se non un generale, che non è generale, adesso lo vedremo, per andare a diventare l'eroe nazionale conquistando le Black Hills. Ed è per questo che il generale Custer, che non era generale, si avvicina alla battaglia delle Black Hills. Accade questo: il generale in realtà è generale Terry, ma ha poca esperienza, invece il colonnello, tenente Custer, ce n'ha un po' di più con gli indiani. Si mettono in qualche qualche modo in combutta e sviluppano il piano d'attacco per attaccare le Black Hills. E il piano è il seguente: da una parte c'è la cavalleria, capitanata dal nostro colonnello Custer, dall'altra invece c'è la fanteria, capitanata dal generale Terry. Devono muoversi in sincrono per arrivare entro 5 giorni a raggirare le Black Hills ed accappare gli indiani. Non sanno né quanti sono né dove stanno, ma hanno una cosa dalla loro: sono molto più numerosi gli americani. A quel punto allora il piano è fatto, ma non hanno un cellulare col quale potersi comunicare le cose, e quindi accade che dovevano muoversi in simultanea per cercare di arrivare nello stesso momento. Ed è lì che il generale Custer, che non era generale, fa una delle scelte più assurde della sua storia. Vuole vincere lui. Vinco io quel forte, vinco io qui la battaglia, vinco io le montagne nere, vinco io la storia delle Black Hills. E quindi cosa fa? Con i cavalli galoppa e arriva, invece che in 5 giorni, arriva in 3 giorni alle Black Hills. Ora, alle Black Hills lui arriva e divide il suo grande reggimento in altri 3 tronconi. Uno lo manda a sud, l'altro lo manda a circondare le Black Hills, un po' come avrebbe dovuto fare con Terry, solo che lo fa con 2 giorni d'anticipo. Nessun altro della fanteria è con lui. Lui è solo con il suo gruppo di cavalleria e lo divide in 3. Non sanno dove stanno gli indiani né quanti sono. Bisogna tornare un attimino, un mese prima, perché il buon Toro Seduto aveva preannunciato questa situazione. Dovete immaginare questo: tra i vari rituali indiani, alcuni sono arrivati anche a noi, alla nostra storia. Tra i vari rituali che noi possiamo immaginare, infatti, ci sono diverse danze. Ve la ricordate, per esempio, la danza della pioggia, dove loro ballano intorno al fuoco, appunto, per cercare di chiamare e invocare il dio della pioggia per far piovere per i loro raccolti. Tra queste danze, una delle più importanti che riguardava i grandi guerrieri è la danza del sole. E in alcuni film abbiamo visto anche questa, anche in Balla coi lupi, eccetera. Sono delle danze in cui il capo guerriero si mette intorno a un palo e balla per ore, togliendosi anche delle parti di carne. La leggenda narra che Toro Seduto, un mese prima di questo intervento, passò la danza del sole per 24 ore ballando da solo e tagliandosi 100 pezzi di carne dalle braccia. A quel punto Toro Seduto ebbe l'illuminazione, una visione, e capì che l'esercito americano avrebbe attaccato le Black Hills in quella modalità. Ed è così che infatti il nostro buon Toro Seduto si fa trovare preparato, mette insieme per la prima volta, mai successo nella storia, diverse tribù, tra cui appunto i Sioux, gli Arapaho e i Crow, che erano lì in zona, e si fanno trovare contro il generale Custer in 3.500. I numeri di quelli che sono un po' diversi, 2.500, 3.500, 8.000. Fatto sta che il generale Custer arriva pensando: vinco io la cosa, faccio io la bella figura, e invece ad uno gli indiani, per la prima volta, non per la prima volta, ma per la parte più importante della battaglia, riescono a vincere contro il bianco. La leggenda narra che tra i personaggi che caddero all'ultimo ci fu proprio il generale Custer, basito di fronte a tanta capacità di organizzazione e di lotta da parte degli indiani. Allora, io ho scelto questa storia quest'oggi tra questi due personaggi perché, non so voi, ma io sento molto forte l'ansia, la paura rispetto al futuro. Veniamo da questo luogo in cui eravamo un po' chiusi, preservati nelle nostre battaglie, comunque ce l'eravamo ormai già cavata, un equilibrio nelle nostre vite, nelle nostre battaglie quotidiane l'avevamo trovato. Eravamo un po' gli indiani che nel loro piccolo avevano trovato il loro modo di gestire. Poi ora, tra poco invece, si apriranno le porte. E allora, secondo me, ognuno di noi ha di fronte questi due scenari. Come si può affrontare questa caccia all'oro? Se con la fame, l'assenza di preparazione, l'arroganza, la voglia d'arrivismo del lunghi capelli generale, non generale, George Armstrong Custer, oppure con la pazienza accorta, attenta, con la connessione, con il rispetto della natura e di ciò che ci circonda, e la pazienza di Bisonte Seduto, chiamato così proprio perché si sedeva, aspettava prima di prendere decisioni. Ci troviamo in un momento in cui dal trattato di Fort Laramie stiamo per uscire. Prima di affrontare la battaglia di Little Bighorn, si dice che Toro Seduto disse ai propri uomini: questo è un bel giorno per morire, seguitemi. Si dice anche che il buon Toro Seduto avesse un suo pensiero sulla morte, che è poi quello degli indiani, cioè quando sarai pronto a morire sarai grande abbastanza per vivere. Ma soprattutto il concetto di guerriero, che è quello che oggi volevo portare alla luce, e che secondo il buon Toro Seduto dice questo: per noi i guerrieri non sono quello che intendete voi. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi si sacrifica. Sacrifica se stesso per il bene degli altri. È suo compito, ad esempio, pensare agli anziani, agli indifesi e a chi non può provvedere a se stesso, e soprattutto ai bambini, che sono il futuro dell'umanità. Aggiungeva frasi strane il buon Toro Seduto, del tipo: quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche. C'è molto più rispetto e onore e forza in questo viaggio verso un nuovo modo di intendere la vita, che sentiamo dire da tutte le parti. Il problema era come eravamo prima, non si può tornare a prima. E beh, è curioso che forse una delle possibilità di forza, di ispirazione, l'esempio, ci possa venire invece da popoli così antichi. Questo era il racconto Toro Seduto di e con Daniele Monterosi. E ora, sempre di e con Daniele Monterosi, Nelson Mandela. Quest'oggi parlerò della storia di Nelson Mandela. Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso. Nelson Mandela. Un poco di zucchero butto in padella. Piacere Mandela. Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi alla Havana. Puntata dedicata a Nelson Mandela. Questa è Margherita Vicario, pazzesca lei, andatela a conoscere questa musica. Mandela, Mandela, che questo è il tuo posto. Grazie, grazie Margherita. Allora immaginate un bambino che corre sulla riva di un fiume. Immaginate che questo bambino possa avere 9-10 anni, però immaginatelo nero e magro e con gli occhi vispi e profondi. Immaginatelo che corre veloce verso il suo villaggio, che è un piccolo villaggio fatto di capanne e case basse. Immaginatelo che corre verso la sua tribù con le mani magari piene di un pesce che ha appena pescato e negli occhi la gioia di poterlo portare alla sua tribù. Io me lo immagino così, questo giovane Nelson Mandela. È perché Nelson Mandela nasce in un villaggio di 810 anime che si chiama Mvezo, sulle rive del fiume Mbashe, nel sud-est del Sudafrica. Nasce in una torrida giornata del 18 luglio del 1918. Nasce colui che viene chiamato Nelson Rolihlahla Mandela, detto Madiba. Mandela era il cognome preso dal nonno paterno. Nelson era il nome che gli è stato poi affibbiato una volta che è arrivato a scuola, alle elementari. Ma allora qual era il suo vero nome, il nome di nascita? Era Rolihlahla. Rolihlahla significava colui che genera guai. E poi c'era quel nomignolo Madiba, che era il nome che gli avevano dato all'interno della sua tribù. Lui faceva parte proprio di una tribù, un'etnia Xhosa, un gruppo etnico di origine Bantu, e tra poco vedremo anche cosa fecero, cosa accadde poi ai Bantu. Beh, Madiba per la sua tribù era un titolo onorifico. Beh, pensare che quel piccolo titolo di quella piccola tribù diventa poi invece col passare degli anni proprio sinonimo dello stesso nome di Mandela. Tanto che molte delle più alte personalità politiche mondiali lo chiameranno spesso così, Madiba. Nelson Rolihlahla Mandela, detto Madiba, è stato un politico e attivista sudafricano. Premio Nobel per la pace nel 1993. Presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Pensate, fu il primo presidente sudafricano nella storia del Sudafrica. Il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire tale carica. Attivista per i diritti civili, avvocato, passò 27 anni in carcere per difendere i diritti di libertà e di uguaglianza messi in discussione dall'apartheid. Nelson Mandela. La storia di Mandela questa sera. Grazie agli specials, grazie, grazie. Allora, la storia di Mandela è molto particolare perché? Perché lui vive in questo villaggino, come detto, di 810 anime fino all'età di 23 anni, fino al 1940. Poi sentite che cosa accade. Storia proprio vera, studiata a modino. Allora succede questo, succede che nella sua tribù c'era una regola. La regola della tribù diceva che a un certo punto dovevano avere dei matrimoni combinati. Guardate che strana assonanza con la storia di Dante di ieri. Anche lui sposato per forza con una donna che non voleva. Lui anche allo stesso modo. Una condizione che però lui e il cugino, chiamato Justice, dovevano sposare una donna imposta dal capo tribù, non vollero tollerare. E così il giovane Nelson, insieme al cugino, decide di scappare da questo villaggio, dalla sua tribù, e di spostarsi invece a Johannesburg. Oh, arrivato ovviamente a Johannesburg, comincia gli studi, studia legge, entra in università, comincia a partecipare ad alcune dinamiche politiche, scolastiche, universitarie, e viene cacciato, poi ne frequenta un'altra, insomma. Oh, ragazzi, ricordiamoci che il significato del suo nome vero, cioè Rolihlahla, è colui che genera guai, quindi comincia a generare un po' di guai, soprattutto perché? Perché in quegli anni proprio accade una cosa particolare in Sudafrica, e ovviamente stiamo parlando quasi ovviamente del 1942-43. Dobbiamo immaginare questo, dobbiamo immaginare che c'era un movimento in quel momento proprio politico portato avanti dal Partito Nazionale che, diciamo, proprio non è che trattava tutti allo stesso modo, cioè trattava meglio qualcuno di qualcun altro, ecco, cioè tendeva a separare, a ripartire in maniera diversa i principi, la libertà rispetto al colore della pelle. Cioè, se eri bianco potevi fare delle cose, se eri nero no. Ecco, è questo un po', no? Letteralmente questa separazione, questa spartizione, il famoso significato di un termine che magari abbiamo sentito, che è apartheid. Ecco, quando il giovane Nelson arriva a Johannesburg, si sta muovendo quello che è appunto l'apartheid. E uno che si chiama con un nome del genere, no? Rolihlahla, ma che vuol dire colui che genera guai. Secondo voi, se lì a guardare uno che è scappato dal suo villaggio, dalla sua tribù, perché non voleva accettare le regole proprio ataviche di una tribù che gli imponeva di sposare una donna che lui non amava, secondo voi, di fronte a questa dinamica in cui i diritti e i doveri non erano ripartiti nella maniera giusta, sta in silenzio? Certo che no. Ovviamente entra, scende in campo a modo suo e comincia ovviamente a mettersi dalla parte opposta rispetto al Partito Nazionale, essendo ovviamente lui di colore, e quindi si mette dall'altra parte. Per dire alcune limitazioni che il governo proprio per legge poteva applicare rispetto a colore della pelle, eccetera, sappiate che, per esempio, per farvi un esempio, negli anni 60, a causa dell'apartheid, i negozi, per esempio, per legge, dovevano servire prima i clienti bianchi e poi, semmai, quelli neri. Oppure altre cose, per esempio i neri potevano muoversi solo se avevano con loro dei passaporti interni che dovevano in qualche modo essere appunto identificati per muoversi nelle zone dei bianchi. Ecco, questo patentino che si chiama passbook, appunto, che era un documento richiesto proprio ai neri durante le leggi razziali di questa apartheid. C'è una curiosa foto che potete trovare anche online di un Nelson Mandela, già uomo, che con un sorriso meraviglioso lo brucia così, in segno di proprio, no, sfida, e non ci sta. Applausi. Basta, grazie. Allora, no, per dirvi questo, perché ovviamente per dirvi ne un'altra dell'apartheid, questi sono esempi spiccioli, ma per esempio ricordiamoci che lui faceva parte di questa tribù ed era di origine bantu, no? Che è questa etnia. Ecco, pensate che nel 60 3,5 milioni di neri, no? Appartenenti all'etnia bantu furono sfrattati con la forza dalle loro case e deportati via in una zona che era proprio stata chiamata Bantustan, cioè furono privati di ogni diritto politico e civile, potevano frequentare solo l'istituzione di scuole agricole e commerciali speciali, insomma una roba in cui buttati lì in un ghetto. Allora che cosa succede? Ovviamente il buon Mandela entra a far parte della contrapposizione di questo partito che portava avanti questa cosa, questo partito nazionale, e quindi entra a far parte dell'African Nation Congress, appunto congresso nazionale africano, che era il più importante partito politico sudafricano in quel momento, fondato proprio nella lotta durante l'apartheid, che poi invece è rimasto e rimarrà ininterrottamente al governo del paese, del Sudafrica, dalla caduta del regime avvenuta nel 94 in poi, quindi da quando poi Mandela riuscirà a insediarsi fino ad oggi ancora la ANC è appunto a capo del governo, ma all'epoca ovviamente negli anni 50, 40, inizio metà 40, 50 e 60 non era per niente al governo, anzi era all'opposizione, un'opposizione di guerriglia che ovviamente lo porta subito con alcune azioni in cui lui si mette subito in mostra, il nostro Mandela. Niente, primo arresto nel 1956, lo accusano già di alto tradimento, nel processo con lui vanno altre 150 persone, il processo è lungo, dura dal 56 al 61, dopodiché vengono tutti assolti, però ovviamente le cose non vanno anche bene, perché che succede? Ovviamente gli eventi continuano ad andare avanti, c'è sempre più ingiustizia, il buon Mandela, il buon Madiba è lì che non può ovviamente rimanere in silenzio, e viene considerato tra i più importanti responsabili di sabotaggio e tradimento, e viene quindi di nuovo arrestato, e stavolta ci rimane, viene arrestato il 12 giugno del 1964, finisce in galera e ci resterà per 27 anni. Per tutti e 27 gli anni in cui lui è in carcere, fu sempre di più coinvolto nell'opposizione dell'apartheid, quindi anche se è in carcere comunque il movimento della ANC continua a mantenerlo come riferimento e anzi cominciano a inneggiare fuori nelle strade sempre di più lo slogan Nelson Mandela libero. Mentre era in prigione Mandela riuscì a spedire un manifesto addirittura alla ANC, pubblicato il 15 giugno del 1980. Il testo recitava: unitevi, mobilitatevi, lottate, tra l'incudine delle azioni di massa e il martello della lotta armata dobbiamo annientare l'apartheid. Che significa? Dobbiamo annullare e annientare le ingiustizie sociali. Dobbiamo annientare e annullare il fatto che la legge non è uguale per tutti. Pensate, nel 1985, lui è ancora in carcere, gli offrono la libertà condizionata, a patto che lui rinunciasse alla lotta armata. No, mo dutevi, secondo voi lui che ha fatto? Ha rinunciato alla lotta armata pur di mettersi libero e avere la libertà condizionata? Era l'85. Certo che no, è rimasto in galera, ha detto no, non vi preoccupate, io se esco faccio un casino. Mandela rimase in prigione fino al febbraio del 1990. Uscì grazie alle proteste sempre più insistenti dell'ANC e alle pressioni finalmente a un certo punto arrivate anche delle comunità internazionali, no? Uscì l'11 febbraio 1990. Uscì quando aveva 71 anni. E questo è l'auto, tutto per Nelson. Grande Nelson. Grande Nelson. Io ho un po' di gossip, un momento così, per esempio, le mogli, ne ha avute due, una l'ha sposata nel 44, Evelyn Mase, però dalla quale divorziò nel 58, prima di finire in galera. Praticamente si lascia si sposa prima di finire in galera con una e con l'altra, perché poi invece nel 58 proprio sposa in seconde nozze Winnie Madikizela, da cui poi invece si separò nel 92, da poco uscito di prigione. Insomma, curiosi i casi. Però Winnie è curiosa perché sarà la donna alla quale, una volta in carcere, appunto in 27 anni, scriverà le lettere, e ne leggeremo tra poco una. Le canzoni dedicate a Mandela, alcune le stiamo ascoltando: Mandela's Day di Simple Minds, Nelson Mandela degli Spells, Give Me Hope Joanna, che è ispirata a questo. Poi abbiamo Freedom Now di Tracy Chapman, che tra poco ascolteremo. Abbiamo anche ascoltato Mandela di Margherita Vicario, e ce ne sono molte altre dedicate al Sor Mandela. Poi i film, ovviamente, come non citare il film Mandela la lunga strada del 2013, Il colore della libertà uscito nel 2007, Winnie, che è Winnie Mandela, appunto la storia della moglie vista dagli occhi della moglie, del 2011, film americano. Poi c'è un Mandela del 96, c'è anche un Mandela and the Clerk del 1997, ma ovviamente quello più noto, quello più famoso, quello che comunque ha dato più lustro a questa storia è appunto Invictus, l'invincibile del 2009, con la regia di Clint Eastwood. Tra l'altro con un Morgan Freeman straordinario che interpreta Mandela. Ah sì, c'è anche Matt Damon. Peter Gabriel Biko, grazie, altro suggerimento. Vado avanti perché ho raccolto delle lettere o la realtà, perché mi sono questo visto 27 anni in carcere. Una stanzetta che nel film, come vedete, non riesce neanche a stendere le braccia. Si dice che aveva una serie di esercizi anche che gli permettevano comunque di mantenere un certo chilometraggio, camminava dentro la stanza per non perdere il cervello. Allora vado a prendere un po' di info, no? di racconti, di cose riguardano come lui ha passato questi 26 anni, possano forse ispirarci in questo momento in cui, ovviamente, in una situazione totalmente diversa, siamo in una sorta di costrizione, no? Di arresti domiciliari anche noi. E allora andiamo a vedere un attimo che cosa ho raccolto. Allora. Come funzionavano le giornate in carcere? La giornata di lavoro iniziava molto presto, scrive il buon Sor Mandela. I detenuti erano costretti a lavorare faticosamente curvi sulla schiena, nella cava di calcio o in ginocchio per terra a spaccare le pietre. Ma oltre a condizioni di vita più decorose, i prigionieri chiedevano anche un vitto migliore, coperte pulite ed uguali diritti per i detenuti. Questo perché il regime di separazione che vigeva nel paese, cioè quindi l'apartheid, non escludeva la vita carceraria. I bianchi non c'erano nella terribile prigione di Robben Island, dove stava Mandela. Indiani, meticci e africani non condividevano le stesse celle, non mangiavano lo stesso cibo, non indossavano le stesse divise. Secondo modi di pensare stereotipati, gli africani erano considerati ragazzi a prescindere dall'età. Non era quindi concesso loro di avere pantaloni lunghi, e la loro divisa color khaki prevedeva sia in estate che in inverno i pantaloni corti. Altra errata considerazione era quella che i neri non mangiassero il pane. Forse presumevano che gli africani non piacesse il pane, considerato un cibo europeo. Durante i 27 anni di detenzione, Mandela lesse molti testi, poemi, poesie liriche, ne vedremo tra poco una, libri in lingua afrikaner, che era olandese, e poi anche in inglese, lingua che nel corso della detenzione imparò a perfezionare, conoscendo addirittura poi la grammatica e il gergo parlato comune, insieme a qualcuno che appunto era in prigione con lui. Pensate, i taccuini, le bozze e tutto il resto che riguardavano quello che scriveva sono custoditi ancora oggi in un'audiobiografia e sono piene di annotazioni grandi, filosofiche, ma anche molto spicciole, del tipo: oggi occhio destro molto dolente e arrossato, 21 anniversario di nozze, misurato cella 6,4 metri per 5,4 metri. La metta nuova. Peso 70,3 kg. Ovviamente a queste alternava riflessioni anche filosofiche. Pensa, si scrive che il presidente americano Barack Obama, nell'appassionata prefazione del libro, scriveva: ho cominciato a interessarmi di politica negli anni del college, unendomi alla campagna per la fine dell'apartheid in Sudafrica. Mandela dimostrava che non dobbiamo accettare il mondo così com'è, che possiamo fare la nostra parte perché diventi come dovrebbe essere. E poi ho raccolto una lettera che scrisse a Winnie e dice: la cella è un luogo ideale per imparare a conoscersi, per esplorare realisticamente e con regolarità i propri processi mentali ed emotivi. Nel giudicare i nostri progressi in quanto individui, tendiamo a concentrarci su fattori esterni quali la posizione sociale, l'influenza e la popolarità, la ricchezza e il grado di istruzione. Ciò è importante, naturalmente, per valutare il successo di una persona nelle questioni materiali ed è perfettamente comprensibile che molti si adoperino per questo. Tuttavia, i fattori interni sono forse ancora più cruciali per stimare il nostro sviluppo in quanto esseri umani. Onestà, sincerità, semplicità, umiltà, generosità disinteressata, mancanza di vanità, disponibilità nell'aiutare gli altri, qualità alla portata di chiunque, sono il fondamento della vita spirituale. Meditare regolarmente, diciamo per 15 minuti al giorno prima di dormire, può rivelarsi assai proficuo a questo proposito. All'inizio può sembrare difficile definire gli aspetti negativi della propria vita, ma il decimo tentativo potrebbe portare frutti insperati. Mai dimenticare che un santo è un peccatore che non smette mai di provare a migliorarsi. Nelson Mandela. Beh, abbiamo visto un po' un passaggio di come lui cosa ha potuto fare per poter superare questa difficoltà legata all'essere in prigione per 27 anni. Allora, per concludere, io ho scelto un ultimo brano. Pensate che proprio a detta sua, questa che vado a leggervi, questa poesia, è stata il principale stimolo del suo continuare la vita in prigione nell'arco di 27 lunghi anni. Lesse, scrisse molto, ma questa lo aiutò particolarmente. È una poesia scritta da un poeta inglese nel 1875, tale William Ernest Henley. Allora io, curioso, sono andato a vedere chi fosse questo William Ernest Henley. E pensate che era un ragazzo che all'età di 12 anni rimase vittima del morbo di POT, che è una grave forma di tubercolosi ossea. Ecco, nonostante tutto, lui continuò i suoi studi e riuscì a costruire anche una carriera giornalistica a Londra. Questa poesia il giovane William la scrisse in ospedale. Nelson Mandela la utilizzò come principale stimolo per rimanere in vita durante gli anni in prigione nell'arco di 27 lunghi anni. È ovviamente presente anche nel film Invictus. Dal profondo della notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non s'è piegata la mia testa. Al di là di questo luogo di ira e di lacrime, si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza. Sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Con Daniele Monterosi, autore, attore dei due racconti Toro Seduto e Nelson Mandela. Daniele, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito, ben trovati a voi. Ciao Federico. Con te ci eravamo sentiti per l'occasione in cui hai dato forma di spettacolo ad alcuni di questi racconti che sono cominciati durante l'emergenza sanitaria, la chiusura totale, il blocco in casa. Ci racconti un po' la genesi di questo progetto? Sì, guarda, con piacere, anche perché mi piace sempre raccontarla, perché nasce dal momento di buio più totale che abbiamo vissuto tutti, no? Chiusi in casa durante il lockdown, e ognuno di noi ha cercato di sopravvivere a modo suo alla disperazione di quei giorni, e io quindi per reagire alla mia disperazione ho fatto quello che volevo fare. Il 6 marzo, quindi ancora prima che la chiusura definitiva di tutto, mi sono messo lì sulla mia pagina Facebook, ho detto vado in diretta e racconto delle storie. Tanto sapevo che insomma saremmo stati comunque tutti a casa, e mi sono detto facciamo una cosa, sulla mia pagina Facebook raccolgo un po' di amici, un po' di persone che mi seguono e gli racconto delle storie. E sono partito quindi così dal 6 marzo, tra l'altro legandomi al concetto proprio del Decameron di Giovanni Boccaccio. Anche lì questi giovani chiusi per scappare dalla peste nera della Firenze del 1300 si raccontano storie. E partendo con questo presupposto mi sono detto ok, allora comincio a raccontare anch'io delle storie per sopravvivere alla nostra di pandemia. Sì. E piano piano quindi, sera dopo sera, anche e soprattutto grazie proprio all'interazione con il pubblico che ha cominciato a seguirmi sin dall'inizio, ho cominciato a strutturare delle storie che piano piano hanno preso la dimensione di questo biopic, chiamiamolo così, cioè quindi queste mini puntate in cui in diretta raccontavo la storia di personaggi noti del Novecento e non solo, donne e uomini, che attraverso la loro storia fossero veicolo di messaggi capaci di ispirarci, perché in quel momento, ma pure oggi credo, la cosa che più di cui più abbiamo bisogno è proprio messaggi che ci diano comunque una speranza e che ci facciano capire che superato un momento di difficoltà poi torna il sole. All'inizio hai spaziato molto in queste tue dirette e poi ti sei proprio indirizzato sulle biografie. Come le hai costruite rispetto alle informazioni sulla vita dei personaggi? L'altra cosa interessante era questa, che mi ero dato come obiettivo quello di andare in scena, chiamiamolo così, anche se non era in scena, andare in diretta ogni sera. E come tu puoi immaginare, andare in diretta ogni sera significa che praticamente ti stai condannando a dover studiare tutto il giorno, perché ogni sera c'era una puntata nuova. Io questo ovviamente all'inizio un po' ingenuamente non lo potevo minimamente immaginare, e poi piano piano invece comincio a capire che dovevo, ovviamente per raccontare queste storie dovevo indagare, studiare. Quindi io mi organizzavo, visto che poi a quel punto subentrò il lockdown, eravamo bloccati in casa, e quindi io il pomeriggio, dalla mattina al pomeriggio, mi mettevo lì e studiavo il personaggio nello specifico, e poi la sera in diretta lo andavo a raccontare. Quindi ecco, anche i file e i contributi che ovviamente ne escono fuori vanno comunque sempre in qualche modo, come posso dire, fruiti attraverso questa lente. La lente di chi in diretta, in battaglia, raccoglie informazioni e le divulga raccontando una storia capace di mettere insieme delle persone, farle sentire meno sole e comunque farle divertire e anche veicolare messaggi. E quindi in questo è stata una vera avventura. I personaggi come li sceglievo? In alcuni casi li ho scelti così dal mio repertorio, chiamiamolo così, di personaggi a me cari. Altre volte invece, molto spesso poi, la cosa più bella di tutto questo viaggio, per dire, è stato proprio il rapporto diretto con le persone, il pubblico che mi scriveva e che mi scrive ancora, suggerendomi personaggi, storie, questo è interessante, leggi di questo, ti prego raccontami quest'altro. E quindi in questo dialogo continuo, io continuavo e continuo anche adesso a cercare, anzi proprio no, ad avere questo tipo di scambio con il pubblico. E quindi piano piano, partendo dalle storie del Decameron, piano piano cominciamo a comprendere che la strada più giusta in quel momento poteva proprio essere quella di andare a prendere in considerazione alcuni personaggi che fossero simbolo del momento che stavamo vivendo, cioè del blocco, della clausura e della ripartenza. Quindi in questo caso, per esempio, Mandela, che è appunto uno degli esempi di più incredibile storia di essere umano chiuso, e in quel caso in prigione, e non certo solo per 3 mesi, che poi invece esce e diventa il primo presidente di colore del Sudafrica, e per un presidente che rivoluziona la storia del mondo. Ecco, insomma, quindi messaggi che ci facessero in qualche modo capire che dalla clausura poi potesse uscire qualcosa di positivo e di grande e di bello. E Toro Seduto, di lui cosa ti ha meravigliato, cosa ti ha impressionato? La cosa curiosa è che infatti io racconto anche nella storia che da bambini, almeno a me da bambino, si gioca sempre ai soldati, agli indiani, e nei film culturalmente siamo sempre abituati a pensare che ci siano i buoni e i cattivi, e nel caso appunto i cattivi sono gli indiani, queste con le penne che lanciano le accette. Quando si parla degli indiani, fondamentalmente gli indiani sono quelle con le penne in testa che fanno e lanciano le accette. Invece poi se uno comincia a studiare, a mettere le mani realmente nella storia, a mettere le mani realmente sul nostro tessuto reale, si accorge che ovviamente la storia è ben diversa. Se c'è stato qualcuno che era il cattivo, certo non erano gli indiani che ci vivevano già in quelle terre, ma semmai sono i bianchi che sono arrivati e hanno fatto quello che hanno fatto. Allora, tra l'altro, la mia narrazione non ha lo scopo di essere una denuncia o avere dei risvolti di chissà quale messaggio politico, però se non altro anche un po' di consapevolezza rispetto alla natura vera delle cose. E la storia appunto di Toro Seduto è l'emblema di quando persone che sono state vessate, attaccate e hanno subito delle grandi ingiustizie, poi trovano la forza di potersi rifare, una loro rivincita. Infatti Toro Seduto passa alla storia come il più famoso degli indiani, proprio perché è colui che guida la più grande delle vittorie degli indiani contro l'esercito appunto americano e il generale Custer. In quel caso, tutta la storia del Black Mountain, tutto il rituale, tutto come funziona la vita degli indiani, perché avevano queste penne in testa, cosa rappresentano, la cultura, i valori di cui erano portatori. Ecco, mi piace durante le storie far nascere delle domande implicite in cui uno dice: oddio, io pensavo delle cose, invece adesso ne sto scoprendo forse delle altre, e chissà se quelle altre poi non erano forse, non dico meglio delle nostre, ma forse in alcuni casi sì, cioè, perché posso dire una cosa, se uno va a leggere realmente, a studiare realmente le dinamiche di quelle che erano i valori, la cultura indiana, e beh, uno mette fortemente in discussione i propri i valori rispetto a una cultura così aderente con la natura, ad esempio, come quella degli indiani, così rispettosa, così in simbiosi con il territorio che vivevano. Poi arrivano i bianchi, invece fanno razzia di tutto, e quindi uno la domanda se la fa. Infatti in quel caso, nella dinamica degli indiani, io parlavo di quella puntata proprio perché saremmo stati costretti tutti quanti noi alla famosa fase 2 a riaprire tutto, e quindi entrava il tema della corsa all'oro, che è tema centrale nella dinamica di Toro Seduto del generale Custer, perché quella famosa battaglia dove il generale Custer muore e gli indiani vincono nasce su una dinamica, proprio te la riassumo brevissimamente, le Black Mountain sono un luogo di culto sacro per gli indiani, invece i bianchi ci vanno perché c'è l'oro, che per gli indiani l'oro non è niente, cioè per gli indiani la montagna, le Black Mountain erano importanti in quanto luogo sacro, a prescindere dall'oro, invece i bianchi lo vogliono perché c'è l'oro. E quindi questa battaglia, questa sconfitta, secondo me è ultrameritata. Della biografia di quattro trombettisti jazz hai realizzato uno spettacolo in uno dei primi appuntamenti in cui si è tornati a fare spettacolo dal vivo. È un percorso che continuerai? Sì, con grande piacere sto scoprendo che anche qui stanno accadendo delle cose, ma è tutto un po' in diretta e in divenire, no? In questi giorni in cui siamo tutti un po' nelle nostre attività, ripartendo, ricostruendo con grandi interrogativi, grandi differenze rispetto al prima. Quindi io sì, ho fatto, come infatti appunto ancora vi ringrazio dell'invito, parlammo di quella serata del 21 giugno anche insieme, no? Ed è andata molto bene, sono molto contento perché sono stato invitato, ora vi ricordo precedentemente, all'Alexanderplatz, che è appunto questo importante punto di riferimento del jazz a Roma. Invitato proprio dal fatto che avevo raccontato queste storie, io ho fatto 35 dirette nell'arco del lockdown e quindi sono stato invitato con il concetto di Daniele Racconta a raccontare la storia del jazz all'interno del Tempio del Jazz a Roma durante la festa della musica. E quindi in quel caso scelsi di raccontare il jazz attraverso la storia dei quattro più grandi trombettisti, perché per me è tempo di suonare la carica e per questo ho scelto la tromba, eccetera, eccetera. La cosa è andata molto bene. Sono stato davvero felice, moltissimi del pubblico che mi ha seguito nell'avventura online, poi ovviamente mi ha cominciato a seguire anche nelle attività dal vivo live, con tutte le dovute distinzioni, sai, no? Il distanziamento, le cose surreali in alcuni casi che stiamo vivendo tutti, e quindi poi ecco, piano piano stanno nascendo altre possibilità, altre idee. Sto per essere invitato in altri contesti e quindi semmai poi ti terrò aggiornato. A questo proposito, ci lasci tutti i riferimenti web nel salutarci? Assolutamente, guarda, io mi chiamo Daniele Monterosi, quindi io sui canali social, quello è il nome, su Facebook e su Instagram. Il sito mio personale è danielemonterosi.com, quindi questi sono i miei riferimenti, e chi ha piacere di seguirmi in questa avventura che è tutta in divenire, fa piacere, ci possiamo trovare là. Daniele, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo, in bocca al lupo a tutti noi. Grazie ancora dell'invito. con Claudio Longhi di Emilia Romagna Teatro Fondazione per la rassegna I Giardini d'Estate a Modena dal 10 luglio al 30 agosto 2020. Claudio, ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Parliamo un po' di questa manifestazione? Sì, intanto segnalo con profonda gratitudine il fatto che il Comune di Modena, con una scelta secondo me molto forte, molto significativa, ha deciso di affidare ad Emilia Romagna Teatro Fondazione la progettazione di un segmento dell'estate modenese, un segmento significativo come quello che tradizionalmente si svolge ai Giardini. Credo che sia un gesto importante per segnalare la centralità della cultura e segnatamente del teatro dentro un progetto, dentro una visione di città. Per quello che riguarda la programmazione che abbiamo cercato di mettere in campo, è una programmazione che ha al centro l'idea di comunità da mille punti di vista, a partire dalla trasversalità della proposta, cioè una proposta che svariando dal teatro alla musica, al cinema, agli incontri e al teatro di figura, alle rappresentazioni di Burattini, cerca di intercettare le diverse possibilità e i diversi interessi che si muovono all'interno di una città. È una programmazione che intende svilupparsi nel segno della festa, una festa che è dovuta, credo, alla nostra comunità, dati i mesi difficili che ci siamo lasciati alle spalle e che spero sia bene augurale per il domani che ci aspetta. È una programmazione che è legata a un'idea di comunità, perché si realizza anche fortemente in dialogo non soltanto con i protagonisti della scena e della cultura del paese, ma anche attingendo alle risorse, alla forza della produzione artistica e culturale milanese. Nasce infatti da un dialogo con gli amici della musica, con gli amici del jazz, con il teatro comunale, con l'istituto storico di Modena, con il circuito cinema, quindi con la compagnia di Burattini della Commedia, con un dialogo proficuo che lega per l'appunto l'universo della comunità di Modena alla scena per l'appunto nazionale, con nomi come Michela Murgia, come Sandro Bergonzoni, come Ascanio Celestino, come Lella Costa. Si tratta di quasi due mesi di programmazione. Quanti sono nel complesso gli eventi? Sono 33 appuntamenti. Che spaziano in più discipline artistiche? Spaziano in più discipline artistiche, sono quasi tutti allocati nei fine settimana, il venerdì, sabato e domenica, e per l'appunto andiamo da incontri, penso per esempio alle lezioni di storia di La Terza che risbarcano a Modena con la coppia Alessandro Manoli e Segnello sui nemici degli italiani, o a incontri come quello con Alessandro Bergonzoni e Gabriele Romagnoli. Sarà proprio un dialogo tra loro due che darà l'avvio agli incontri, o una conversazione con Telmo Pievani, ma ci sarà spazio per spettacoli, per l'appunto penso a Vedova Socrate con Lella Costa, che è un modo per celebrare anche i 100 anni di Franca Valeri, che ha individuato in Lella Costa la sua ideale continuatrice, o un ritorno di un grande classico come Radio Clandestina di Ascanio Celestini. Ma ci sarà anche spazio per la nuova drammaturgia, per esempio, che è un filone di ricerca molto caro a Bert. Penso al lavoro di Davide Carnevali, L'Orgasmo di Shakespeare in una notte di mezz'estate, e di Emanuele Altrovanti con i suoi tentativi per sconfiggere la morte, per un testo finalista all'ultima edizione del Premio Riccione. Ci sarà spazio per la riflessione e l'impegno attraverso il teatro con lo spettacolo del progetto se dicessimo la verità, che insiste su tutto il tema delle infiltrazioni mafiose, della vera e propria piaga della malavita organizzata quando attecchisce negli anfratti della vita comunitaria, spettacolo che sarà seguito tra l'altro da un dibattito con presenze autorevoli come il procuratore nazionale antimafia e Tizian, il giornalista che è partito proprio da Modena e che ha fatto della lotta contro la mafia uno dei primi filoni della sua ricerca. La cosa sarà fatta anche, oltre che per i grandi classici, i grandi protagonisti del teatro come quelli che citavo prima, anche per le realtà che si stanno affermando e stanno diventando tra le realtà più interessanti della scena nazionale. Penso ai Kepler 452 con Capitalismo Magico, che vede in scena Nicola Borghesi e Lodovico Guenzi. Penso a Marta Cuscunà che ci presenta la sua riflessione sui temi dei diritti delle donne attraverso la semplicità ingannata. Penso a Sotterraneo che ci presenta Shakespeareology, questa sorta di avventura, di ricostruzione della vicenda del bardo. Insomma, c'è veramente materia per tante possibilità. Mi preme sottolineare, ovviamente sto correndo attraverso 33 appuntamenti e mi dispiace non citarli tutti, ma vorrei segnalare la collaborazione importante con il Teatro Comunale che presenta due appuntamenti, uno del Festival, l'altro Suono e l'altro dell'Opera Rock, in collaborazione tra l'altro con il Centro Musica di Modena, oltre che con la Rassegna L'Altro Suono. Questo va a segnalare la forza del sistema di relazioni che questa città esprime. Ricordo per esempio che anche l'appuntamento con Telmo Pirani è un appuntamento che organizziamo in collaborazione con le biblioteche di Modena e con altri partner istituzionali. Insomma, c'è stato veramente un grande sforzo di condivisione. Per tutte le informazioni, i riferimenti internet? Rimandiamo assolutamente al nostro sito, al sito di Emilia Romagna Teatro Fondazione, dove troviamo tutte le informazioni necessarie. Sì. Aggiungo soltanto un ultimo particolare importante. Ricordo che in armonia con la normativa anti-Covid attualmente vigente, tutte le serate sono soggette all'obbligo della prenotazione, perché appunto dobbiamo garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti e quindi è la massima cura del pubblico. Quindi con questo spirito la prenotazione obbligatoria. Ricordo anche che in un'estate straordinaria come quella che stiamo vivendo, per un valore più simbolico per certi aspetti che per una reale necessità, si è scelto d'intesa con il Comune di rendere a pagamento 7 dei 33 appuntamenti, tutti gli altri saranno gratuiti. Sono 4 in maggio, 4 in luglio e 3 in agosto. Il prezzo è un prezzo poco più che simbolico, stiamo parlando di 5 euro al biglietto, ma per segnalare quell'aspetto importante che è la valenza di lavoro che esiste dentro il teatro e dentro l'esperienza culturale in senso lato, che è stato uno dei temi cardini dei mesi difficili che ci siamo lasciati alle spalle e che ci hanno indotto a riflettere su alcune cose che prima si davano per scontato, ma che scontate non sono. I giardini d'estate a Modena dal 10 luglio al 30 agosto 2020. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Longhi di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima e vi aspetto ai giardini naturalmente. Con Emilia Ficarelli, organizzatrice della 15ª edizione della Festa Estiva del Racconto, a Carpi dal 2 luglio al 23 agosto 2020. Ben trovata. Buongiorno a lei. Raccontiamo un po' la storia di questa festa. Sì, la Festa del Racconto, come dicevate, è giunta alla 15ª edizione, nasce dal premio Loria. che è un premio dedicato a un autore cartigiano di racconti, appunto Arturo Loria, al quale è dedicata anche la nostra biblioteca. Dal premio Loria è nata poi una festa dedicata al racconto che negli anni si è estesa alla letteratura, insomma, in senso più ampio, mantenendo comunque sempre un focus sul racconto e sul ragionamento anche dei generi letterari. Quello che ci interessa molto sono anche le diverse forme della narrazione. Infatti la festa del racconto parla a un pubblico molto diverso, sia di narrativa, letteratura, saggistica, ma anche attraverso immagini e performance teatrali o musicali, perché appunto sono le diverse forme narrative. Quest'anno, a causa appunto dell'emergenza sanitaria, non si è svolta la rassegna dal 27 al 31 maggio come avevamo programmato, ma appena è stato possibile riorganizzare attività di promozione in presenza, abbiamo organizzato una rassegna estiva. Sarà tutti i giorni? Come è organizzato il calendario? Giovedì e venerdì prevalentemente nella settimana, tutti i giovedì e tutti i venerdì, appunto dal 2 luglio questa sera sino al 23 di agosto, qualche eccezione ci sarà il mercoledì, è stata un po' la disponibilità degli autori, insomma degli ospiti. Il mercoledì e giovedì è dedicato agli adulti, il venerdì è dedicato ai ragazzi. Poi concludiamo il 21, il 22 e il 23 di agosto con un weekend proprio intenso dove vorremmo organizzare più eventi nella giornata, quindi qualcosa al mattino come avevamo fatto gli altri anni, una colazione con l'autore, alla sera eventualmente una performance teatrale musicale e un incontro anche con un autore oppure un rappresentante insomma del mondo del giornalismo o della saggistica, ecco. Quindi ci saranno eventi tutte le settimane, due o tre serate ogni settimana. Quali saranno gli spazi e quanti nel complesso gli eventi? Gli spazi sono il cortile d'onore del Palazzo del Pio, che è stato allestito in sicurezza e può ospitare 160 persone adulti, 190 se si tratta di spettacoli per ragazzi, perché si presume nuclei familiari che possono avere un distanziamento minore, cioè non sono tenuti a rispettare il distanziamento dell'un metro, quindi abbiamo più posti. E complessivamente quindi noi avremo almeno 30-35 appuntamenti, perché agosto è ancora in via di definizione, e ci saranno appuntamenti perché la festa del racconto è una rassegna che riguarda i comuni delle Terre d'Argine, quindi Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera, quindi ci saranno eventi anche in questi comuni, sempre in linea con quello che facciamo a Carpi, adulti e ragazzi, incontri con autori e spettacoli. Gli altri anni avevamo circa 50 eventi, quest'anno non arriveremo a 50, ma penso che a 35 eventi comunque arriveremo, e organizzati tutti nel giro di un mese. In caso di pioggia saremo invece nel teatro comunale, che anche lì siamo riusciti a allestire con un protocollo che rispetta appunto le esigenze del distanziamento. Ecco. C'è un tema portante per l'edizione di quest'anno? C'era nell'edizione che avevamo prevista per il 27 e il 31 maggio, che era Segni e tracce, sta per leggere il libro del mondo, doveva essere quindi l'attualità, diciamo, del mondo contemporaneo visto sotto diversi aspetti, ma non avendo potuto organizzare la rassegna dall'inizio dell'anno come normalmente si faceva, siamo stati costretti ad abbassare il tema. E quindi è libero, ecco, gli interventi, perché qui è un problema anche di spostamenti degli autori, della disponibilità appunto delle uscite anche editoriali, quindi insomma non c'era il tempo per formulare un'edizione insomma che potesse mantenere questo filo conduttore che ci sarebbe piaciuto molto, perché ci sembrava interessante insomma guardare, partendo dal segno, che pensavamo al segno proprio nella scrittura, che è quello che ci interessa maggiormente, quali tracce lascia appunto questa scrittura e come nel tempo appunto vengono lette, percepite o trasformate, ecco. In chiusura ci lascia tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, festadelracconto.it, e lì trovate tutte le informazioni e obbligo la prenotazione, quindi molto, molto semplice, c'è una piattaforma sulla quale appunto si può prenotare. Posso aggiungere che cominciamo questa sera con Luca Sofri, che è un giornalista, direttore del Post, che è intervistato da Massimiliano Panarari, parlerà appunto di fake news, di comunicazione o, se vogliamo, infodemia, cioè soprattutto la comunicazione ai tempi della pandemia e quelli che sono stati un po' gli elementi critici della comunicazione. A fine mese avremo Paolo Nori e Nicola Borghesi con uno spettacolo, se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi, quindi in chiave un po' ironica ci si interroga su cosa vuol dire essere italiani, ed altri autori come Roberto Cotroneo, Ugo Cornia, Paolo Di Paolo, Fausto Vitaliano e Giorgio Fontana, mentre gli spettacoli per ragazzi in parte saranno dedicati a Gianni Rodari, del quale ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita. Quindicesima edizione della Festa Estiva del Racconto a Carpi dal 2 luglio al 23 agosto 2020, un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice Emilia Ficarelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci. Con Nadia Baldi, vice direttrice della 13ª edizione del Napoli Teatro Festival dal 1 al 31 luglio 2020. Ben trovata. Grazie, grazie a voi ovviamente, soprattutto. Raccontiamo quali sono le caratteristiche di questo festival. È un festival multimediale con 10 sezioni che spaziano dalla danza al teatro, alla musica, alla sezione sport opera, alla sezione letteratura, mostre, incontri, insomma sono 10 sezioni tutte estremamente affascinanti e soprattutto abbiamo un festival con 130 eventi che in questo momento in Europa diventa un unicum, è il festival più importante Europa sostanzialmente, un po' per questioni legate al momento, perché gli altri festival l'hanno chiusi, ma un po' perché ormai è riconosciuto a livello internazionale come il più grande festival d'Italia. Come si è organizzato rispetto alla sicurezza? Chiaramente con tutte le norme possibili e immaginabili, dal distanziamento, chiaramente, quindi le platee sono state ridotte, sono tutti spazi all'aperto, con proprio plotoni di infermieri, di personale con mascherine, con termoscanner, insomma con tutto quello che è necessario per mantenere protetti gli spettatori. Io ci tengo a dire che noi ormai 15-20 giorni fa abbiamo aperto il botteghino online alle 10 del mattino. Alle 10.30 i biglietti erano tutti esauriti per tutti e 130 gli eventi, questo per dire che comunque il pubblico attendeva e aveva voglia di tornare all'arte e questa cosa è stata meravigliosa, quindi insomma nonostante le paure, quello che ci ha costretti a stare chiusi, il pubblico invece ha reagito in maniera egregia, in maniera proprio energica a questa cosa. Ieri sera abbiamo inaugurato con due operazioni con grandissima felicità, devo dire, c'era proprio un bellissimo pubblico, gli artisti erano molto molto felici. Considerata la multidisciplinarietà, c'è un tema, un filo conduttore che lega un po' tutti gli eventi? No, assolutamente no, non è nella nostra linea, il filo conduttore appartiene a una scelta, è come quando uno entra in una grandissima biblioteca dove ci sono anche migliaia di libri e fa da solo un percorso, la necessità di porre un tema non ci riguarda sostanzialmente, invece è importante che si dia la possibilità, a più sensibilità di farsi un proprio percorso. Quanti sono i luoghi del festival? Sono tanti, abbiamo tre palcoscenici a Palazzo Reale, tre palcoscenici al Museo di Capodimonte, abbiamo i palcoscenici in Regione e a Pietrelcina, a Benevento, a Caserta e Solofra, abbiamo anche a Napoli una spiaggia, insomma sono tanti, sono circa 19, sono tutti all'aperto. E gli eventi come sono cadenzati nella settimana? È previsto tutti i giorni? Tutti i giorni e ogni giorno ci sono almeno 4-5 eventi, tutti i giorni, sì. Con orari ovviamente distanziati, a seconda delle cose, nel senso che ci sono mostre, ci sono incontri a determinati orari, ci sono gli spettacoli alle 21, alle 23, insomma ci sono tantissime cose ogni giorno, fino al 31 luglio, dal primo al 31 luglio. Si comincia al mattino o il pomeriggio? Dal pomeriggio. E poi ci tengo a ricordare che c'è anche la sezione internazionale che per ovvi motivi non è partita a luglio ma che parte a settembre, che va fino a febbraio. Sono previsti anche incontri con gli artisti? Sì, in alcuni casi sì, ci sono anche incontri con gli artisti, sì, ci sono alcune giornate dedicate agli artisti. I riferimenti web per la programmazione? napoliteatrofestival.it e poi ci sono le pagine social, ci sono tutte ovviamente, sempre Napoli Teatro Festival, possibile trovare su Facebook, su Instagram, su Twitter, insomma un po' dovunque. Poi ci tengo a dire che su 13 eventi abbiamo la diretta streaming, come è successo ieri sera, abbiamo inaugurato lo streaming con la diretta del concerto De Foia, che ha avuto un numero notevole di visualizzazioni, e quindi c'è anche questa possibilità per chi non riesce a venire direttamente a Napoli o per chi non riesce, ormai essendo tutto esaurito, a vedere gli spettacoli, può vederlo in streaming. E inoltre ci tengo ancora a precisare che proprio perché c'è stata questa grandissima affluenza immediatamente, abbiamo chiesto alle compagnie di replicare, di fare delle doppie, abbiamo aperto anche le prove aperte, quindi si è ancora più allargato lo festival negli ultimi giorni. 13ª edizione del Napoli Teatro Festival dal 1 al 31 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento alla vice direttrice Nadia Baldi, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e buon lavoro, vi aspettiamo comunque, grazie. Con Maya di Casetta Rossa per presentare la 18ª edizione di Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa S.P.A. dal 1 luglio al 26. Maya, ben trovata. Ciao. Raccontiamo intanto cos'è la Festa dell'Altra Estate. Allora, la Festa dell'Altra Estate per noi ormai è diventata croce e delizia, diciamo. Sono appunto 18 anni, quest'anno diventiamo maturi e mature. Siamo partiti facendo, diciamo, una piccola somma di tutto quello che facciamo durante l'anno, quindi una specie di saggio finale, e poi piano piano negli anni ci siamo ampliati, quindi è diventato un festival vero e proprio. Negli scorsi anni appunto la festa durava 10 giorni e quest'anno abbiamo deciso di renderla un po' più lunga proprio per superare insieme questa pandemia. Quindi cominciamo oggi con un brindisi alle 6 e andiamo avanti per ben più di 3 settimane, e mettendo insieme tutte le energie che si sono create intorno alla casetta, appunto per la consegna dei pacchi alimentari, che quest'anno è stata una delle nostre attività principali. Ci saranno appunto vari, i soliti appuntamenti musicali, teatrali, cinema. Quest'anno abbiamo avviato anche una collaborazione con il Cinema de Tour, quindi ci saranno delle proiezioni, ci sarà anche una proiezione in anteprima di film su PJ Harvey, ci saranno spettacoli teatrali, ci sarà un intervento di PIF previsto per il 16 luglio, la sera stessa interverrà Giobbe Covatta, che verrà a parlare di una campagna di sensibilizzazione ambientale. È stata una sorpresa anche per noi, ci ha proposto di farla da noi, e verrà con Marco Cappato a parlare appunto di questa campagna che si chiama Stop Global Warming. Poi appunto tante attività anche per i bambini e le bambine. Venerdì abbiamo il Mago delle Ombre, Silvio Gioia, che viene ogni anno e fa il pienone tra i bambini. A proposito di pienone, ricordo che per partecipare agli eventi quest'anno appunto siamo costretti a contingentarli, quindi sono tutti a prenotazione. Sul sito ci sono i link dove registrarsi all'Eventbrite, cioè alla piattaforma che poi emette dei biglietti virtuali, diciamo, e chiaramente l'ingresso è limitato a 50 persone sia per gli eventi del pomeriggio che a quelli della sera. Pure la cena sarà tutta diversa, insomma sarà a distanza, sarà con camerieri mascherati, diciamo che È un festival comunque bello, più lungo, ma sempre ai tempi del Covid, quindi con tutte le misure di sicurezza. Comincia quasi tutti i giorni intorno alle 16:30, ci sono le attività ai laboratori per i bambini, poi prosegue con presentazioni di libri, incontri, dibattiti, poi eventi, diciamo, serali, che sono appunto quelli musicali, quelli teatrali o quelli cinematografici. E il 26 ci sarà un evento finale con tutti i DJ che hanno partecipato, diciamo, agli eventi, agli aperitivi musicali, e più quelli che hanno partecipato al nostro programma della Radio Anticorpi, che non so se conoscete, è stato un po' un progetto virtuale di questa pandemia, era una pagina Facebook dove pubblicavamo dei contenuti di vario tipo, informativo, culturale, eccetera. Quindi molti si sono avvicinati con questo progetto e hanno aderito anche alla festa. Ecco, oltre i 20 giorni, sono tutti i giorni dedicati alla festa? Tutti i giorni della settimana? Esatto, noi in genere lunedì siamo chiusi, ma per la festa siamo aperti, quindi non ci saranno interruzioni, no. Saremo chiusi la mattina, perché di solito apriamo la mattina alle 9, però in questo periodo stiamo ospitando i centri estivi, quindi la festa partirà, come vi consueto, intorno alle 16:30. Tutti i riferimenti per il programma sul web? Sul sito di casettarossa.org, sull'home page, al centro, a sinistra, c'è proprio tutto il programma. E fondamentale, ci sono i link agli eventi, ma soprattutto per chi non ha Facebook ci sono i link specifici per registrarsi, perché sono due link diversi, però ci si può registrare sia tramite gli eventi su Facebook che tramite appunto il sito. Confluiscono tutti nello stesso programma, quindi senza paura, visto che molti ci hanno detto ma c'è scritto a pagamento, in realtà è così perché la piattaforma dice così, ma non ci sono, gli eventi sono tutti rigorosamente gratuiti da sempre, cioè ci teniamo a dirlo perché gli unici eventi a pagamento sono quelli nei quali raccogliamo dei fondi per destinarli ad altre realtà. L'anno scorso abbiamo raccolto 2000 euro, abbiamo dato a Mediterranea. Quest'anno purtroppo non possiamo fare eventi molto grandi e avevamo previsto di fare l'ennesimo tributo a De André, che però andrà a finire a settembre. In quell'occasione, diciamo, speriamo che possano venire più persone. Comunque sì, i riferimenti sono tutti sulla pagina web e sulla pagina Facebook di Casetta Rossa. 18esima edizione di Festa dell'Altra Estate a Roma, Casetta Rossa S.p.A. dal 1 al 26 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento a Maya di Casetta Rossa. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, viva il lupo e vi aspettiamo, venite a farvi uno spritz. Con Filippo Arlia, direttore artistico di Mediterraneo Radio Festival, a Borgo di Nocera Terinese, nell'antico convento dei padri Cappuccini, dal 6 luglio al 12 agosto 2020. Ben trovato. Grazie, è un piacere essere qui con voi. Ci presenti questa iniziativa? Questa è la prima edizione di un'iniziativa che speriamo avrà tante altre edizioni. L'idea è nata proprio per una ripartenza delle stagioni concertistiche, diciamo, dopo la tragedia che abbiamo vissuto con il coronavirus. Quindi, sapendo che comunque non è possibile far entrare più di un certo numero di persone ai concerti a causa delle norme anti-Covid, abbiamo pensato di coinvolgere un'emittente radiofonica importante, e in questo caso si tratta di Rai Radio 3, che trasmetterà praticamente tutti i concerti del festival. Ecco perché Mediterraneo Radio Festival. La nostra idea è stata quella di organizzare il festival in un piccolo borgo, perché alla fine si tratta di una piccola cittadina sul Tirreno catanzarese, Nocera Terinese, che ha avuto la fortuna di recitare bollettino zero per tutta la durata, diciamo, dell'epidemia. È un po' la fortuna che la periferia italiana, che la provincia italiana ha avuto in questi tre mesi difficili per tutto il mondo, ecco. La scelta degli eventi? La scelta dei musicisti è ricaduta sul fatto che, secondo me, l'originalità è proprio l'unione tra musicisti, diciamo, del nostro conservatorio, quindi studenti, i migliori studenti che esordiscono sul palcoscenico, e professionisti invece che vengono dai teatri più importanti, perché abbiamo musicisti che vengono dal Teatro alla Scala di Milano, come abbiamo Francesco Cafiso, che è uno dei jazzisti più acclamati, diciamo, della sua generazione in questo momento nel mondo, o come Mario Marzi, che è un sassofonista conosciuto, Riccardo Tesi, che per la musica popolare è uno dei maggiori depositari dell'organetto, perché è proprio un compositore che ha scritto brani su cui i ragazzi studiano. Quindi secondo me l'unione tra i giovani esordienti e i professionisti invece già riconosciuti di fama mondiale creerà un prodotto, diciamo, interessante e originale. Per quanto riguarda le musiche, la scelta di che tipo è stata? Io sono sempre del parere che oggi, nel 2021, i musicisti devono sapere che, e anche il pubblico deve sapere che esistono vari tipi di linguaggio musicale, non esiste solo la musica classica. E quindi i concerti prevedono non solo musica classica, ma anche jazz e musica popolare, perché dalla contaminazione, secondo me, tra i vari generi, dalla condivisione delle idee, si può creare insomma un prodotto. Infatti suoneremo Bach, ma suoneremo anche Gershwin e musiche popolari appunto scritte da Tesi magari durante i concerti. È un po', come dire, quello che ha caratterizzato tantissimi artisti negli ultimi anni, voglio dire. Lo stesso Ezio Bosso, che abbiamo perso quest'anno, era un musicista cresciuto con la musica classica, ma faceva jazz, dirigeva, era un artista veramente a tutto tondo. Visto che si tratta di una prima edizione, com'è stata la genesi? L'entusiasmo è stato tanto. Il fatto di aver passato un lockdown così lungo che ci ha impedito di esprimerci sul palcoscenico, perché per noi musicisti la quarta parete, la cosiddetta quarta parete, il pubblico è fondamentale. Questo ha provocato da parte nostra una voglia di tornare sul palcoscenico il prima possibile e ha provocato anche la riscoperta, secondo me, di alcuni valori che davamo per scontato, perché anche la stretta di mano con un collega musicista sul palco, che era una cosa naturale, ora è diventata preziosa. Quindi devo dire che siamo particolarmente entusiasti proprio per questo, non tanto ecco per il programma musicale, ma per il fatto di incontrare per la prima volta la gente dopo così tanto tempo. Oh, come per la musica c'è una mescolanza dei generi, anche nel termine mediterraneo questo fa pensare ad un incontro di popoli. Sì, sì, è vero, e infatti devo dire che a Nocera Terinese, per esempio, c'è l'area archeologica Temesa, dove da qualche tempo ci sono degli scavi per il recupero di alcuni reperti archeologici, e anche questa è un'area che nel tempo ha vissuto tante popolazioni, tanti usi, tanti costumi, tante lingue, e in realtà rappresenta l'unione di tante caratteristiche eterogenee, perché quest'idea, diciamo, della montagna che cala a picco sul mare è proprio tipico del Mar Tirreno e di questa parte del Mediterraneo. Noi siamo un po' greci e un po' arabi, e questo secondo me ci dona un talento parlare, perché comunque nascere guardando tutti i giorni il tramonto su Stromboli, per una persona che si occupa di arte, di musica, di danza, è importante. L'Italia detiene il 95% del patrimonio artistico mondiale, e non possiamo negare che le nostre radici affondano proprio le loro origini in uno spirito artistico importante. Secondo me svolgere un festival così, in un luogo che è così caratteristico per il Mediterraneo, diciamo, è una cosa bella per riscoprire le nostre radici e i nostri valori, per restituirci un po' a noi stessi. Il chiostro di un antico convento, immaginiamo un luogo suggestivo. Sì, il convento dei Frati Cappuccini è uno dei più antichi luoghi, diciamo, calabresi, architettonico, che è stato ristrutturato recentemente. La soprintendenza ne ha fatto di tutto per fare rimanere, diciamo, il luogo così com'era originariamente. Infatti è un reperto architettonico storico da guardare. Secondo me è molto suggestivo perché si trova, diciamo, in cima ad una montagna dalla quale si vede tranquillamente il mare. C'è un terrazzo bellissimo di fronte a questo chiostro. È un po', diciamo, la caratteristica di tanti luoghi architettonici calabresi. Anche questo è uno dei valori che secondo me devono essere portati all'attenzione di chi ci governa, e devono essere valorizzati appunto per sapere che abbiamo dei luoghi importanti che tutto il mondo ci invidia. Per tutte le informazioni ci lasci i riferimenti internet? Certamente, si possono trovare le informazioni sul sito web ufficiale